difficile. Lo so. Però è meglio. Musica allo stato puro. Ti ripigli di sicuro. Sarebbe bello essere nuvole, avere un mondo da inseguire, fermarsi solo un attimo e se c'è noia scomparire. È il programma col cuore di un bambino, è il cammino di Gigi D'Agostino. Musica più lenta che marcia, che spera, veloce o più lenta, violenta e sincera. Musica più lenta che marcia, che spera, veloce o più lenta, violenta e sincera. Chi viaggia poco resterà piccino. Il cammino di Gigi D'Agostino. Di Gigi D'Agostino. Non si ripete mai, non si ripete mai, ma è bello ripeterlo, ma è bello ripeterlo, ma è bello ripeterlo. Tipo Gigi Club, artista lento violento me, lento violento. Famonotti, c'è sta folclorista, ma che cazzo è stato? interessa se il mondo corre. Noi camminiamo molto lentamente. Noi procediamo pensando. Stiamo attenti. Andiamo a letto. Andiamo lenti.

l'artista. La Tana del Suono. Bello, mi piace. It's mad. ascoltando. Wherever. Love Transistor. Love Transistor. Many faces, many times around the world. And you didn't know anything about it. So many smiles I see about it in my time. And you didn't know anything. And you didn't know anything. Thank you.

Celestino di Scobar. Momento aperitivo. Passaggio all'aperitivo. Passaggio all'aperitivo. Momento creativo. Il cammino di Gigi D'Agostino. Assaggio l'aperitivo. L'aperitivo di oggi è...